Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, ho ascoltato con piacere l'analisi delle manovre dei tagli alla spesa pubblica proclamate dal governo. A detta dell'esecutivo, i tagli sarebbero necessari per eliminare gli sprechi e razionalizzare una macchina burocratica che fa girare la testa più di questo caldo. Credo che l'eliminazione degli sprechi e la razionalizzazione siano in realtà compito naturale di un governo, sia in tempi di crisi sia di prosperità. Ho paura che ancora una volta venga presa la pillola per eliminare qualche sintomo senza scacciare il malanno. In conclusione, temo che non si vedranno manovre atte in qualche modo a influenzare il potere d'acquisto degli italiani, che facilitino l'imprenditoria e che aiutino l'impresa ad affacciarsi a nuovi mercati, intesi come acquirenti e non come forza lavoro a basso costo. Alessandra. Cara Alessandra, è vero, per molti aspetti la manovra del governo, più che attuare interventi diretti per ridurre gli sprechi e le inefficienze, taglia i trasferimenti e i fondi per gli enti locali e in piccola parte anche per i ministeri, lasciando poi a questi stessi enti il compito di gestire al meglio i loro bilanci. È anche vero che i soldi risparmiati serviranno unicamente a ridurre il deficit di bilancio e non aumentare direttamente o indirettamente il potere d'acquisto delle famiglie o la competitività delle imprese. E per altri aspetti, questa manovra è composta anche da interventi come la lotta all'evasione fiscale che dovrebbero far parte della normale attività amministrativa e non decisi solo sotto la spinta dell'emergenza. Detto questo, resta aperta la necessità di riforme che semplifichino la struttura dello Stato e incidano su quelli che vengono chiamati i costi della politica. E proprio quest'ultimo punto sarebbe in questa fase il più importante. La politica dovrebbe dare il buon esempio e invece i risparmi sono perennemente in lista d'attesa. Direttore, 7 anni di reclusione comminati dalla Corte d'Appello a Marcello Dell'Utri sono cosa da poco per l'entourage berlusconiano. Provate ad immaginare se una condanna a 7 anni di reclusione per concorso esterno ad associazione mafiosa fosse stata applicata, per esempio, a Di Pietro. Quale uragano di anatemi sarebbe esploso dai falchi berlusconiani? Dimissioni, esilio, sparizione. Non crede? Maria. Cara Radio 24, la Corte d'Appello di Palermo, di fatto, con la sentenza Dell'Utri, esclude tutte le roboanti piste investigative della Procura di Palermo. Sono stati smontati tutti quei processi da riaprire sulle stragi, sulla trattativa Ross, Carabinieri e Mafia, i quali avevano in comune il punto fermo nel fatto che la mafia fosse arrivata al potere dopo il 93 per il tramite di Marcello Dell'Utri. Giovanna. Cara Radio 24, non era mai accaduto prima che lo Stato italiano riuscisse ad ottenere così tanti ed eccellenti risultati nel contrasto alle mafie tradizionali, come non era mai accaduto prima che politici e pubblici amministratori venissero condannati per concorso esterno in associazione mafiosa. Spesso, come testimonia il clamoroso caso del senatore Giulio Andreotti, i processi ai politici in odore di mafia venivano insabbiati e prolungati sino ad ottenerne la prescrizione. Questa vergogna, questa impunità di certa casta politica è stata incrinata dalle ultime sentenze nei confronti di Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. Finalmente lo Stato sembra rispondere decisamente e concretamente nei rapporti fra parte della casta politica e le mafie. Finalmente, dalla cronaca quotidiana, viene fuori un senso di speranza per il futuro di questo paese. Finalmente si rompe il muro dei mangiatori di cannoli alla siciliana e di incensatori di mafiosi paragonati ad eroi. La mafia e i mafiosi non hanno nulla di eroico, mentre coppole e cannoli siciliani tornano ad essere produzioni tipiche regionali senza altro valore che questo. Finalmente, lo Stato sbaraglia le mafie e punisce i politici che si sono fatti corrompere moralmente e non solo dai poteri mafiosi. Finalmente. Elena. Direttore, mi chiedo, se avessi un amico assolto perché dopo il 92 non era mafioso ma prima sì, mi preoccuperei. E mi preoccuperei anche se questi dice che il suo eroe è un altro mafioso. Lei non si preoccuperebbe allo stesso modo? Il fatto rimane e la notizia deve essere data correttamente. Dell'Utri è mafioso ed è stato mafioso prima e dopo il 92 e non credo basti una sentenza di appello per dire il contrario. A ogni modo, Dell'Utri non farà un giorno di galera, mentre noi comuni cittadini, se dovessimo rubare una mela, finiremmo subito in carcere. Laura. Caro direttore, oggi ho parlato con 5 persone della morte di Taricone e con nessuno della condanna a 7 anni per mafia decisa in appello per Marcello Dell'Utri. È la dimostrazione che siamo disinformati o semplicemente che ci interessa più Taricone di Dell'Utri? Per me la verità è la seconda e trovo inaccettabile che chi considera sciocchezza la vicenda di Taricone non contempli l'ipotesi di essere influenzato dalla passione politica nella propria visione. Fra l'altro, gli unici che si appassionano per la vicenda Dell'Utri sono quelli che cercano di andare a parare sulla mancanza di legalità nel centrodestra e costruire immaginifici teoremi per cui se Dell'Utri è mafioso, lo è Berlusconi e lo è l'intero PDL. Marta. Cara Radio 24, sono preoccupata e mi trovo ad essere sempre più d'accordo con Beppe Grillo. Nel 1976, a 15 anni, feci la prima tessera per la DC. Quando Berlusconi arrivò in politica, ne fui una convintissima sostenitrice. Ora però mi sto scocciando. In che modo dobbiamo definire le vicende Brancher e Dell'Utri? È proprio indispensabile elevare un plurinquisito a ministro della Repubblica? Non è drammaticamente triste esultare per la condanna a soli 7 anni per reati di mafia di un proprio senatore? Come si fa a non pensare male? Come si fa a non provare vergogna per i voti dati agli amici di simili personaggi? Angela. Caro direttore, in questi giorni si parla di federalismo demaniale, la cessione di beni dello Stato agli enti locali che decideranno se utilizzarli o venderli per fare cassa. In linea generale sono contraria alla vendita di beni nazionali. Alcuni beni potrebbero essere alienati, come per esempio i complessi immobiliari, ma il tutto andrebbe visto caso per caso e soprattutto valutato con competenza ed onestà. Sono anche contraria al trasferimento di proprietà dal centro alla periferia. In alternativa, potrebbe essere adottata la formula del comodato per alcuni decenni. Flavia. La verità è che nessuno vuole rinunciare a niente. Lo dimostrano le province che proclamano la loro essenziale funzione, lo dimostrano le regioni che non accettano i tagli ai loro costi. Tutti a parole offrono buoni propositi, ma in pratica la loro disponibilità a ridurre i bilanci faraonici della loro gestione sembra vacillare. Le regioni bocciano la manovra e sembra che i loro conti siano già all'osso e che gli eventuali tagli ricadrebbero sulle spalle dei cittadini. Possibile che non emergano esagerate parcelle di consulenze, inutili viaggi, esosi costi anche dedicati all'arte, con orrendi monumenti incomprensibili e terribili da guardare, che più di una volta ci siamo ritrovati nel bel mezzo di qualche rotonda, dove qualche fiorita piantina avrebbe fatto la sua bella figura con più gioia per gli occhi e lo spirito? Possibile non abbia ancora sentito qualcuno che si faccia carico dell'inevitabile necessità di tagliare veramente gli sprechi inutili, cercando di assicurare comunque alla popolazione i diritti e i servizi? Almeno che ci provino, senza piangere da subito. Sono convinta che un'equipe di brave casalinghe, abituate a ridurre le spese senza che i figli ne risentano, sarebbero più capaci di tanti in doppio petto, capaci tanto di parlare e poco di amministrare. Siamo fantastici. C'è necessità di tagli alle spese e siamo già alla fase dei tagli e dei tagli. Cambierà mai qualcosa? Giulia. Caro direttore, le scrivo dopo essere rientrata da una settimana in Sardegna. Non le parlerò dei posti incantevoli che ho visitato, ma di un problema enorme che ha la Sardegna, il randagismo. Ci sono cani che vagano in assoluto abbandono, sono come fantasmi in mezzo alla gente. Cani denutriti, impauriti, impestati dalle zecche, affetti da malattie cutanee di ogni genere. Le parlerò di Bobby, così l'ho soprannominato, il cane che mi ha riempito il cuore di tanta gioia e di altrettanta tristezza. Bobby si presentava tutti i giorni nel parcheggio di un supermercato a Badesi e si metteva disteso in disparte senza chiedere nulla, in attesa che qualcuno si accorgesse di lui. Non si faceva avvicinare, quando gli portavo da mangiare si allontanava un po', aspettava che lasciassi il cibo e l'acqua e poi faceva il suo pasto. Ero molto felice e allo stesso tempo ero triste, perché sapevo che potevo continuare a occuparmi di lui solo fino alla fine del mio soggiorno, perché poi avrei preso l'aereo per rientrare a casa. Sono indignata che in Sardegna ci sia un totale abbandono di cani e gatti. Com'è possibile che ci sia un fenomeno così grosso e nessuno prenda provvedimenti se non quando ci sono i cosiddetti attacchi all'uomo? Le istituzioni dove sono? Invece di prevenire, impugnano un fucile quando ormai il danno è fatto. Grazie, Carla. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.